Inizia ora Music for Youth. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Cervo 97.8, Radio Sandonà 102.2, una nuova puntata di Music for Youth è nell'etere, mi dispiace per voi radioascoltatori. Esatto, una nuova puntata è in onda vostro malgrado. Daniele Terzariol al Vise Favotto, buonasera Daniele Terzariol. Buonasera a lei, mio caro esimio collega. Voi non lo sapete, ma Daniele Terzariol questa sera ci ricorda il puffo forzuto, nel senso che ha delle spalle assolutamente prominenti e una felpa azzurra. Azzurro Viagra, se posso dire. Se avevo le mesh bionde. Rigido, in effetti. Se avevo le mesh bionde, ricordavo Puffetta. Che tra l'altro, sai che è stata mandata lì da Gargamella. Per creare scompiglio. Però quelli non prendevano Viagra, al contrario di come dicevi tu. Poi c'è, a parte tutta la teoria che secondo cui Puffi è la rivisitazione di una società comunista, la sappiamo questa cosa. No? Davvero c'è un momento sovietico, sì. Sì, sì, no, c'è anche un momento filosofico notevole. Io tra l'altro mi domando chi era orde di Puffi e una Puffetta sola. Due o tre domande, te le fai? Vivi in un fungo, e ti spiego anch'io perché. Perché probabilmente te i magni e avevi fatto un salto ad Amsterdam. Esatto. 2:26 sul counter, già troppe le boiate dette. È il momento di fare il tuo sporco lavoro, perché è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Andiamo a presentare l'ospite di questa sera, o meglio gli ospiti. Uno è Trino. Allora, la Santissima Trinità che abbiamo qui alla nostra sinistra è l'associazione Bandiera Gialla, o no? Buonasera a voi, ragazzuoli. Allora, chi abbiamo questa sera con noi? Noi innanzitutto partiamo dal presidente di questa associazione, che è Francesco Zago. Ciao. Hai più come conosciuto come Kapler. Perché? Lo spiega Terzariol. È saltato fuori che noi abbiamo in passione la passione o flaga Disco Pax, è una mutua passione, ce l'ha passata nel tuo caso. È una mutua. È una mutua per la pensione, quella che ho già firmato. Comunque si diceva c'è questa passione reciproca con gli offlaghi, e in uno scambio di SMS l'altro giorno, non mi ricordo perché, è saltato fuori il nome incognito di Kapler, che è uno dei è una delle canzoni del primo album del trio modenese Prove Tecniche di Socialismo Tascabile. Non arrampichiamoci sugli specchi e facciamo una domanda. Perché? Era solo per guadagnare del minutaggio. Guarda, non svelare tutti i nostri trucchetti. Guarda, se siamo così ridotti a vendere gli stracci al mercato, capisci? Bandiera Gialla, perché mi siete qua? Perché avevamo invitato noi? Sostanzialmente sì. Funziona così. E per parlare di loro Puffi. Loro non ci volevano. Infatti erano arrivate con delle mute, tipo per disinfestare gli studi. Esatto. Ed occuparsi di questi appartamenti in ben altra maniera. Sappiate, ascoltatori, che l'associazione Bandiera Gialla, nel momento in cui è arrivata, ci ha lanciato le famose aragoste rissose, e quindi c'è stata una lotta. Francesco ha fatto una faccia stranissima, non ti dico Mauro. Perché le allevano. E quindi noi siamo qui che ancora combattiamo contro delle chele e capiamo la profondità degli oceani. Allora, perché nasce l'associazione Bandiera Gialla? Ma nasce nel 2007, quindi 3 anni fa ormai, e nasce da un gruppo di amici, in pratica, che stavano uscendo dalle superiori, quindi periodo di grossa nostalgia. Pensavo grossa crisi. Beh, anche ma quella perdura. E quindi sostanzialmente la voglia di proporre qualcosa di nuovo, insomma, a livello di intrattenimento in zona, praticamente. Non eravate forse soddisfatti di quella popò di vita che si spende in codesti luoghi? E per codesti intendo Sandonà di Piave? Della nostra adolescenza eravamo soddisfatissimi, però la stanno lasciando, e quindi stavano facendo un salto ventrale verso la gioventù. Lei continua a citare Favotto. Sì, che questa era Ventrale. Questa era Ventrale di Bachelite. Sì. Il secondo album, sì, dei Tre Fantocci di Modena. Esattamente. Allora, stupido Clerk, andiamo a sentire una canzone? Sì, provvedo subito. Non sono Tre Fantocci, ma sono due. Mm-hmm. E stiamo parlando dei Postal Service. Costola, chiamiamoli Costola. Così. Costola. Di quei Branchia. Death Cab for Cutie, diventati così famosi a causa di un film che si chiama Twilight. In effetti, questi poverini, questi Postal Service hanno un loro senso, secondo me. Assolutamente sì. Registrano su Sub Pop, che voglio dire, noi non ci siamo ancora arrivati e ne capiamo i motivi. Parlano di queste grandi notti. I ragazzi fanno indie pop e tu mi chiedi perché si chiamano Postal Service. Sì, perché uno manda all'altro le registrazioni della sua traccia, l'altro l'ascolta, ci compone sopra e li spedisce via posta attraverso il Postal Service USA. Tutto questo si basa su un sistema di raccomandate con ricevuta di ritorno efficiente negli Stati Uniti. Io ho ricevuto una ricevuta di ritorno di 2 settimane fa. Era la questura, era anche una busta gialla. Mi chiamavano a Santa Marta a testimoniare contro di te. Tra molto bene. Noi possiamo andare. Anche noi registriamo, io dal carcere. Saluti Favotto, quindi. Saluti anche a lei. Lei è ancora libero. Un chilo di arance in arrivo. Intanto, Such Great Hits dei Postal Service su Music for Youth. Thank you. Such Great Heights dei Postal Service. Bentornati in Music for Youth, puntata settimanale per noi. Alvise Favotto, che remeni i bigliettini. No, è già sto dando agli origami, per cortesia. Che cosa hai composto? Che cosa hai composto? Per ora sono... Un cigno? No, per ora ho fatto un portello basculante. Ah, molto sì, bene. No, lo sommiamo al bilico della scorsa settimana. Sì, perché... Poi produce il bancale. Esatto. E siamo pressoché a posto. E il trattorino da giardino, vero? È perfetta. Chiediamo ai Bandiera Gialla se vogliono, se sanno fare degli origami. Sì, perché poi si sentono trascurati, sì. E sai com'è, se ne vanno a testa bassa, tocca anche tirare su una causa da 40 anni con Santi Lichieni. Infatti, che però. Allora. Allora, tra l'altro abbiamo presentato il presidente, ma non finisce qui, perché prima abbiamo detto uno e trino e in effetti sono tre. Innanzitutto, chi abbiamo, Lele? Allora, presenzia alla destra del presidente, il signor Martinelli Mauro. Buonasera, buonasera. Il ragazzo fa parte di una band che si chiama Hermetic Garage, o Garage, io direi Garage. Ma loro vogliono Garage. Io direi Garage. Garage. Mentre alla sinistra del presidente, chi presenzia? Un ragazzo che violenta le chitarre. Esatto, che sono pop. Sì, violentemente. Pop. Violentemente pop. È una voce già conosciuta perché è passato in questi studi ed è tuttora vivo. Questa è una dimostrazione che la gente, noi non la torturiamo come Guantanamo. E che comunque, anche se comunque devono vestirsi in arancione per venire, perché altrimenti non li vogliamo. Ma certo che sì. Il ragazzo risponde al nome di Lorenzo Monni. Buonasera Lorenzo. Buonasera. Monni. Il suggerimento, il mio si era per sono il chitarrista strumentista di Bandiera Gialla dei Dunkelblau. Ecco, sì. Di chi è. Allora, i Dunkelblau erano stati con noi e Lorenzo Monni. Sai che hanno fatto tempo a... Sì, ma è un argomento un po' spinoso questo. Lorenzo Monni, persona poliedrica. È un argomento spinoso, però hai sentito? Sì, ovviamente. Quindi io andrei a chiedere, perché è un argomento spinoso? No, ti prego. Parliamo, perché siamo parliamo del tuo roseto, Lorenzo. Siete fermi piantati? Sì, per questioni, diciamo, di carriera all'estero Di Stefano, del frontman. Cioè, i frontman, vedi, hai un minimo di successo, perché loro hanno vinto una competition per la quale hanno remixato i Velvet. Si poteva dire, vi vergognate di questa cosa? No, ne andiamo fieri anche. E sono comparsi come remixer ufficiali nell'ultimo EP di Velvet, il Serpente. Il frontman comincia a tirarsela, dice: beh, io mi trasferisco a Berlino, perché insomma Berlino è avanti, mica questo qua a fare. Poi trova tu dei crauti fatti bene a San Donato. Solo in periodo di fiera. Quindi il ragazzo frontman se ne va a cercare crauti a Berlino, dove li può mangiare 365 giorni all'anno, e lascia qua piantato Lorenzo Monni, che nel frattempo... No, io nel frattempo faccio altre cose. Si dedica a un suo CD. Sì. Ah, è vero che si dedica a un suo CD. E comunque fa delle costruzioni in legno Lorenzo Monni, che veramente... Altro, cioè, che il nostro Falegnani. Vende dei nani da giardino Lorenzo Monni, signori. E nel frattempo... Sto aprendo dei negozi all'estero anche. Infatti Stefano l'ho mandato a Berlino per aprire una mia succursale. Ah, è tipo una cosa merchandising. Sì. Il nano numerato. Con dentro i crauti. Che bontà. E nel frattempo Monni si affianca ai Bandiera Gialla. Perché questa scelta è infelice? Ma è infelice per Bandiera Gialla, tra l'altro. Sì, ovvio. Da un anno a questa parte ho deciso, insomma, di entrare per dare una mano, semplicemente. E io prima facevo parte, tra l'altro, del Punto Giovane, che era un'altra associazione culturale che, diciamo, operava in questa zona. E siccome anche il Punto Giovane stava tramontando, ho detto: facciamo un cambio. Esatto. Diamo una mano dove nascono nuove cose. C'è anche il conflitto di interesse. Io ero anche dell'URP.G, Ufficio Relazioni col Pubblico. Tu? Sì. Cioè, non mi sono neanche accorto di esserlo stato, che eravamo nella fase calante. Sì, no, e capisco perché eravate nella fase calante. Se perché il c'ero io all'URP. Bravissimo. Checco Zago se la ride, perché il primato delle associazioni se l'è beccato lui. Infatti è lì che si sfrega le mani. Vogliamo fargli dire qualcosa, sì, a questo ragazzo? Sì, facciamoglielo dire. Innanzitutto, Francesco, per quale motivo Bandiera Gialla? Ma Bandiera Gialla... Perché la gioventù è bella? No, tu sai bene, per il pezzo che ti abbiamo portato di Gianni Pettenati, ce lo chiedi da mesi, Favotto. E... Esatto, sì, siete un po' i miei idoli per questa cosa. Non è per quello. Si fa un po' riferimento a... all'epoca beat che tu scrivi, in che modo scrivi beat? Beat, B-E-T. Ok. Sì. E quindi facendo riferimento al programma radiofonico, quindi vedi che tutto torna. Bandiera Gialla, che fu il primo a portare un certo tipo di musica, la musica degli anni 60, in Italia. Quindi, come dicevamo prima, all'epoca, 2 o 3 anni fa, avevamo voglia di qualcosa di nuovo, e quindi abbiamo fatto immediatamente questo riferimento, in pratica. Capisci? Questi non scendono in pista subito. Se la studiano e poi ti prendono da dietro, ti mettono come un sacco in testa. Come il miglior Montero. Grandissimo. Guarda, io ho una stima per Montero che tu non hai neanche idea, per cui non toccarmi il bel ragazzo. Poi stavi dicendo ti mettono un sacco di plastica. Sì, e ti portano via. Secondo te i sì. Black Angels, visto il nome, potrebbero fare la stessa cosa? Dei bei angeli neri, hai capito? Infatti, che tra l'altro è la traccia che hanno portato i ragazzi qua. Mi chiedono, non dirmi di spiegare qualcosa sui Black Angel, perché l'ha scelta uno che non è qui stasera. Però io una domanda ve la farei lo stesso. Esatto. Perché i Black Angel? Ma la sua gentilezza, Terzariol. No, ma di nulla. Perché si coglieva l'occasione per salutare il nostro grafico Marco, nonché grande selezionatore che ci propone i Black Angel stasera. Vedo che hai colto. E adesso, e con un gesto abile di mano e di microfono, mi restituisce la parola, perché forse anche lui vuole sapere qualcosa di Black Angel. Sì, e anche io sinceramente. Un favotto mai pago in queste circostanze, potevi dirmi no. Un favotto desideroso di sapere. Ragazzo, loro prendono il nome da The Black Angels Death Song dei Velvet Underground. E Nico, sì. Sei felice? Sì, abbastanza. Vuoi che ti aggiunga che la loro immagine è una serigrafia in sovraesposta di Nico, della ragazza? Ah, pensavo della banana, di nuovo. Quella di Warhol? Sì. No, beh, non è che si può riciclare sempre le stesse cose per 20 anni. Sempre le stesse banane, anche perché dopo un po' mi marciscono. Esatto, ti diventa marrone. I ragazzi sono andati a far da supporter per Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club, i Warlocks e anche i Black Keys. Noti? Black. Basta, ho finito. Perché lo fanno? Per consonanza? Hanno fatto anche da supporto a Malcolm X? Non credo. Possiamo andare avanti? Direi di sì, perché... Presenti tu la traccia? Certamente. Mi fai questa grande cortesia? Allora... Se così io pitocco. Ma pitocca pure. Anzi, facciamola presentare a quel bel ragazzo di Francesco Zago. Secondo noi se lo merita. Beh, direi che me lo merito tutto. Quindi Black Angels, Bloodhounds on My Trail. dall'album Passover del 2006, questi erano i Black Angel con Bloodhounds on My Trail. Esatto, e anche noi Passover, Daniele, continuiamo con la nostra trasmissione con i nostri stupendi ospiti, anzi con i nostri poliedrici ospiti capitanati da quel bel ragazzo di Lorenzo Monni. No, hai sbagliato, è Francesco Monni. Monni, però. Monni, con Mauro Zago. Esatto. Per cui resta fuori la combinazione Lorenzo, aspetta che ci prendo. Vabbè, ci siamo già persi. Per cortesia, fa voto, vai, vai. Faccio una domanda seria e ben fatta. Sì, sì, proprio di quelle ciuse. Bene, bandiera gialla, voi nascete, lo abbiamo detto, a questo punto si passa alle vostre numerose e mai paghe attività. Mi hai rubato il termine prima, perché poliedrico era mio, l'avevo detto prima quando ancora c'era la canzone. Nel fuori onda, questi sono i trucchi del mestiere. I trucchi del mestiere che non conosco. Le classiche cose che fa Montero in tarda età, però. No, avevamo detto poliedrici e mutevoli per tirarcela, però in realtà sintetizzo un pochino, nel senso che abbiamo fatto delle proposte alla città piuttosto differenti tra di loro, e alcune hanno sorpreso anche noi, nel senso che magari non eravamo preparati o non tutti ne sapevamo abbastanza su quello che andavamo a fare. Poi abbiamo imparato strada facendo. Abbiamo deciso di citarne quattro, che sono forse quelle che sono riuscite meglio, non lo so, rispetto ad altre sono state quelle più importanti, cominciando da il Time Code, anzi stavo per citare un'altra, ma cominciamo da Time Code, che era il festival di cortometraggi. È stato il primo festival di cortometraggi per questa città e ha riscosso un discreto successo. Abbiamo ricevuto dei cortometraggi da Milano, Rimini, e poi anche più vicino, però noi citiamo quelli più lontani, così Riccione e Portoguaro. Portoguaro, soprattutto sono arrivati tre da Portoguaro. E quindi è stata una bellissima esperienza che ha coinvolto anche, insomma, diverse aree del centro della città. E cito poi il Bad Summer Festival, che è un festival musicale per gruppi emergenti, è fatto in piccolino, ma è stato interessante perché ha cominciato a protrarsi negli anni e quest'anno camminava da solo senza la nostra partecipazione, quindi le cose funzionano bene anche se non ci siamo, quindi in realtà non serviamo a nulla, però noi lo facciamo lo stesso, gratis. Francesco, aiutami per le cose importanti, una me la ricordo, una non me la ricordo. Vai con quella che ricordi. Mi ricordo, non è, è un paese per vecchi, anzi, però volevo dirla dopo, però la dico subito, è un paese per vecchi, che è una ricerca che abbiamo condotto, anzi ho condotto, posso dirlo, ho condotto io assieme a Federica Niero per Bandiera Gialla. Lui ha anche salvato le banche negli Stati Uniti. Sì, esatto. Lui, sì. Lui mi fregio di questo onere ed onore. Sì. Ha fatto anche andare d'accordo Putin con quell'altro. Sì, e lui è anche quello che ha capito che mettere la grafite nell'hardware del computer ne abbassa i consumi. È un Nobel recente. Recentissimo. Per la chimica, Non si sa che tipi di chimica, però va bene. Prego, continua pure, Mauro. Siete cattivissimi. Ti stavamo dando il tempo di recuperare la quarta cosa, che nel caso non ti ricordavi. La recupera Francesco. La recupero io, tornando al poliedrici. Era un cineforum. Noi siamo un po' quelli delle prime volte. Soprattutto per noi, quindi abbiamo non che noi siamo mai arrivati alle seconde, diciamo che l'ansia da prestazione ci accomuna un po' tutti. Noi solitamente prendiamo sonno, esatto. No, gli altri prendono sonno prima e tu resti lì con numerose domande a cui non darei mai risposta. Prego, assolutamente. Continuiamo con i cineforum, perché noi, guarda, ci ne stiamo a rompere le palle ogni volta. Sì, infatti poi la gente si arrabbia, anche credo. Ma quello è stato carino, perché comunque si chiamava l'Italia Rivista, e quindi noi abbiamo ripercorso un po' gli ultimi 50 anni d'Italia, insomma, attraverso quattro film. Il migliore, almeno quello che io ricordo di più, era Vogliamo anche le rose, che insomma consiglio un sacco, quindi di ripercorrere un po' le lotte per l'emancipazione femminile in Italia. Da qui il collegamento dei film a che cosa? A The Social Network, il prossimo film di Finch. Tu mi chiedi, Favotto, mi chiedi perché mi parli del prossimo film di Finch? Perché nella colonna sonora, cosa c'è? I Radiohead, rifatti dagli Scala Brothers, una cosa molto simile, che ricantano la traccia che andremo a presentare ora. Creep. Sì, si parla di noi, ossia I'm a Creep, basta. Perché? Comunque l'ha fatta anche Vasco Rossi, eh. Sì, ma noi vogliamo andare oltre queste cose. Si può avere quella di Vasco Rossi? No, mi dispiace. Anche Marco Magini ha rifatto Nothing Else Matters comunque. Vabbè, cioè non è che stiamo di jukebox, cioè. E scende il silenzio, cioè, ma... No, ma guarda che ne sanno anche questi molto, eh. Il top del trash con bandiera gialla. Continua, cioè continua ad arrivare gente che ne sa innumerevolmente più di noi. Ma anche non la capra gialla, innumerevolmente. Anche la capra gialla di fianco a te del posto di Pordenone non legge. Non dire mai la capra gialla, che questi sono bandiera gialla, poi si sentono sì, offesi. Poi non capiscono neanche loro, vanno una crisi di diametro piramidale nel corso dei prossimi due minuti. Adesso, perché tutti sappiamo qualcosa di geometria. Bene, i ragazzi, sì. Stiamo parlando di Radiohead. Beh, i Radiohead credo non ci sia bisogno di presentazioni né di conversazione tra noi due, in realtà. Assolutamente no, però era il 1992 e mi hanno buttato fuori Pablo Honey. Esatto. Io ero un ragazzo felice all'epoca, seppure molto piccolo. Sì. E da qui è partita Creep. Domanda, come vi rapportate con i social network, visto il titolo dei film? Nel senso, non vi erodono, perché erodono è italiano, giusto? Sì. Prende da Erode. Prende da Erode, esatto. Bravissimo. Un po' di spazio vitale. Tantissimo spazio vitale. Però no, non spammiamo. Bandiera gialla non spamma. Cosa vuol dire? No, era uno slogan, non è cosa vuol dire. Tu su Nike Just Do It ti chiedi cosa vuol dire Just Do It. No, no, beh, fallo. Chiedevo cosa? Le spiegazioni. Basta, ho finito. Sempre queste polemiche. Mi farò un programma tutto mio, così lo finiamo. Mettimi in un cassetto. Io e la capra gialla qui. Intanto questa è Creep dei Radiohead. so fucking special. I wish I was special. Speravo di essere speciale per te, Al. Questo era Creep dei Radiohead. Lo eri, Lele. Lo sono tuttora? Sì, lo sarai sempre. Grazie. Music for Youth, RSD 102.2, Radio Share 1-37800. Siamo al momento dei contatti. Sei contento, Favotto? Discretamente, se devo dire. E allora fai il cane sciolto, come tutte le settimane. Pensaci tu. Allora, siete rimasti ammaliati da Arturo, lo spremino del futuro? Siete lusingati da Orazio, lo stendino salvaspazio? Una telefonata allo 0421 560993 o un fax allo 0421 560994 e potete avere Ubaldo, il fornelletto sempre caldo. Perché, direte voi, una grande bombola a gas? Dei pannelli solari? No! Favotto e Terzariol fiatano sulla vostra pentola e questo p era il fiato e un tot di sputi che potete avere in omaggio mandandoci una mail a radio@radiosandona.it. Cosa succede alla pentola? Noi si fiata 24 ore su 24, nessun consumo energetico, totalmente non nucleare, la pentola bolle, ci buttate la pasta e matriciana per tutti, soprattutto per i nostri ospiti bandiera gialla che portano che cosa? La pancetta. A te, Terzarioli. I nostri ospiti possono anche collegarsi su musicforyouth.wordpress.com, dal quale possono scaricare il podcast di questa settimana, così si riascoltano e sentono quant'è dialettoso il loro italiano. Perché dobbiamo insultarli a gratis? Perché tanto loro insultano sempre noi e noi ci prendiamo rate di insulti ogni santa puntata che facciamo e qui distribuiamo la cosa. La classica infanzia difficile. In compenso si possono anche collegare sulla pagina specifica di Sherwood, www.sherwood.it, si beccano la nostra trasmissione settimanale in fila. Al martedì li trovano anche il ping di iTunes per scaricarsi e sincronizzare questa bella puntatina da 2 etti e mezzo sul loro iPod, iTouch, iPad, quel cavolo che vuoi, iPad. Per piacere. Beh, no, io no, nel mio caso. Nel tuo caso no, se non da solo, esatto, ricordatelo. Con in compagnia del mio bidet. Andiamo avanti. Si diceva, i link li abbiamo dati, il WordPress l'abbiamo dato. Non ci resta che passare alla canzone successiva. Sì, esatto, abbiamo una hit del momento. Finalmente le balere di tutto il nord-est ringraziano per il ritorno dell'uomo col cappello. Stiamo parlando di Jamiroquai, un ragazzo che dal punto di vista del fuck è più propositivo sicuramente di te, ma anche di me messo assieme a te probabilmente. Non lo so, io ho grosse speranze su di te, ma credo che Jamiroquai ce ne possa dare. Soprattutto perché lui si può gestire la cosa con un parco macchine di ben 8 Chrysler, Ferrari e tutte cose del genere. Insomma, ne posizioni una per macchina e voglio vedere come ne esce alle 6 della mattina. Briochina nel bar sotto casa? Dubito. Non lo so. Io comunque mi accontenterei anche della Panda, quella ancora in versione 82, e andiamo a sentire il singolo nuovo che Jamiro, posso chiamarti così. In realtà è JK. Lui ci riporta JFK, quello del pollo. Anche quello dell'aeroporto. Il ragazzo sforna un nuovo singolo dopo una pausa di ben 4 anni. Mi pare di ricordare una cosa simile. Sì, ha buttato fuori un greatest hits. Il ragazzo sempre aveva prodotto delle grandi tracce come Virtual Insanity e Space Cowboy, mi pare che si chiami così, se la mia mente non tradisce. Aveva anche collaborato, se posso dire una cosa che mi è tanto cara, alla colonna sonora di Godzilla assieme a Puff Daddy. Deeper Underground era una gran traccia. Eh sì. Ora che me lo fai ricordare. E oppure il singolo di Disney a casa. E come diceva Puff Daddy, sempre in quella soundtrack lì, Andiamo a sentirci White Knuckle Ride, il nuovo singolo di Jamiroquai su Music for Youth. White Knuckle Ride, questo è il nuovo singolo di Jamiroquai. Questa è Music for Youth RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800, tutti martedì, mercoledì, lunedì. Andatevi a vedere quando, per le frequenze, sulle rispettive trasmissioni in onda su ambedue le radio. Ed è arrivato il momento della presentazione della traccia degli ospiti. Perché? Perché i ragazzi sono polivalenti, come si diceva, e abbiamo ospite anche Mauro, che oltre a far parte di Bandiera Gialla è anche un membro della band. Di che band, caro Mauro? I meravigliosi, per me, Hermetic Garage. L'importante è che sia non solo per te, ma anche per altri. Ma tu davvero pensi? Come lo chiudi ermeticamente il garage? Silicone? Poliuretano espanso? No, assolutamente, con Jerry Cornelius. Ah, avevo capito Jerry Calà, stavo dicendo, come fa? Beh, guarda che Jerry Calà è un buon isolante. È anche un ottimo termoconduttore, me l'ha rivelato l'altro giorno. Allora, come nascono gli Hermetic Garage? Gli Hermetic Garage nascono circa un anno e mezzo fa, forse qualcosa di più, ma queste cose si perdono sempre. Chi sono? Siamo in quattro e siamo quattro ragazzi appassionati di cose differenti, di forme artistiche diverse rispetto alla musica, e cerchiamo in qualche modo di convogliare queste cose anche attraverso la musica. In particolare, già nel nome, insomma, c'è qualche riferimento ad altre forme espressive come il fumetto, che magari è un po' trascurato, ma abbiamo cercato di rivalutare in questo modo, e un po' alla psicadelia, gli anni 60, fino ad arrivare, insomma, ai giorni nostri, che temo si sentano un pochino nelle cose che produciamo. Però è un cammino, e quindi sono sicuro che faremo di meglio di quello che andate ad ascoltare questa sera, insomma. Ragazzi, a che cosa vi ispirate? Ci ispiriamo a noi stessi. Che domande. E che autoreferenziali. Hai visto? Santo cielo. Mi piace tantissimo la parola autoreferenziale. Ma mia, che rispostace. Ma perché li abbiamo chiamati? È una buona domanda la tua. Quella volta che mi impegno mi arrivano pure delle offese sul capocollo. Ritiriamoci nel gabinetto. Intanto possiamo ascoltarci la traccia. Non so se Mauro ci lascia, no? Perché sai, prego. Posso andare? Credo dovrebbe discuterne, Daniele, con se stesso prima. Il titolo? The Goose. Beccatevela. You hate a race. You love your country and your whole place. The Goose degli Hermetic Garage, o Garage a seconda di quello che vuole Mauro Martinelli. Ormai sono diventato suo schiavetto dopo le lezioni di stile che mi ha imposto. Hermetic Garage, che saranno ospiti a Music for Youth più avanti per una puntata tutta loro, per la felicità delle pompon girls che ci stanno ascoltando. Tutta loro nel senso che poi noi proprio stiamo in bagno sbaraccando, sì sì, esatto, in pieno. Passiamo invece a cose un po' più serie, perché, caro Favotto, i ragazzi ospiti questa sera hanno il loro perché. Sì, lo hanno indubbiamente. Tutti i nostri ospiti hanno un loro perché. I Bandiera Gialla, seppur bistrattati, ce ne hanno anche di più, se posso dire. Ce ne hanno anche di più perché si sono resi protagonisti di un'iniziativa che ora Mauro ci spiega, che a noi ha fatto un mondo di piacere, anche se, non vedendo queste tabelle con numeri, almeno io, non so tu, io non ho capito nulla. Però si parlava prima di Sandonà non è un paese per vecchi, che cos'è? Sfortunatamente è un paese per vecchi, tranne che per alcune persone. È un paese per vecchi, è un'assemblea pubblica che abbiamo realizzato ad aprile, questa primavera, insomma. Era un'assemblea aperta a tutta la cittadinanza, nella quale ci siamo chiesti, come prima cosa, un po' di tempo prima, ok, prima di fare qualsiasi cosa per la città, andiamo a vedere che cosa c'è di buono, che cosa non c'è di buono e come possiamo presentarlo a tutti quanti, in modo da capire tutti quanti assieme come funzionano quale cose. E da questo è nata una ricerca condotta assieme a Federica Niero, e abbiamo fatto questa cosa, l'abbiamo presentato in questa assemblea pubblica con un sacco di numeri e un sacco di tabelle che non abbiamo avuto qui lo dico, qui lo nego, non abbiamo avuto il tempo di redigere ben bene, quindi non si capiva assolutamente niente, ma dai che non è vero. No, noi abbiamo capito in realtà. E se ci siamo arrivati noi, buona camicia a tutti. I discorsi, sì, esatto, erano serissimi e insomma ha avuto un bel riscontro. È stato molto importante, più che altro, proprio vedere la risposta delle persone a quello che stavamo dicendo. È stato molto interessante, insomma. Il sottoscritto vi ha chiamato non solo perché, vabbè, ci conosciamo e siete un'associazione giovanile del territorio, ma anche perché ho pensato, insomma, è un discorso che si può estendere anche a ben altre realtà. Padova, sì, o tutti gli altri piccoli centri che, come popolazione inferiore a Padova, che ci stanno ascoltando. Ma soprattutto loro, adesso, se posso permettermi un discorso serio, non capiterà più nel prossimo semestre. Ricordatevelo, accendete le registrazioni. Però loro sono stati i primi che nella mia vita hanno dato una risposta a dov'è la gente al sabato sera, perché tipo le persone che io vedo in biblioteca poi non ci sono nella mia vita comune. Loro me lo dicono. Te lo diciamo noi, te l'abbiamo detto noi, sono felice di questo. Abbiamo scoperto in realtà che esistono molte attività che vengono svolte privatamente dai giovani soprattutto, e che ci sono molte persone che fanno molte cose interessanti e che non si vedono, soprattutto che lo fanno insomma, in luoghi privati dove non si sa bene cosa fanno, sono cose importanti. Forse così hanno cominciato anche i Charlatans, potrebbe essere? Sì. Prima però di parlare dei Charlatans, che comunque è un gruppo che ruba un nome a un altro gruppo che è statunitense, sì, io vorrei parlare un attimo con il mio beniamino Lorenzo Moni di un progetto futuro che è invece l'associazione qui rappresentata, ossia Bandiera Gialla. E quale progetto futuro avete? Niente, stiamo organizzando questa serata a Revolver, in cui verranno vari gruppi a suonare. Serata Scrivere Male sarà, appunto, da questa organizzazione presieduta dagli Elettro Fandango, in cui organizzano, diciamo, musica e video. Quindi saranno video installazioni unite alla musica. Ci saranno gli Elettro Fandango, ci saranno i Transistors, un gruppo New Wave che è uscito anche quest'anno con un nuovo disco, e già confermata per il 3 dicembre a Revolver, e adesso stiamo, diciamo, programmando i dettagli. I ragazzi si sono presi avanti con le pratiche, stanno a programmare i dettagli. Mica come te che come me e te che viviamo alla giornata, tipo, esatto. Cosa facciamo noi domani mattina? Piscina? Eventualmente io farei un po' di acqua gym, che ho visto un paio di sessantenni lascia stare, che mi sa che sono le stesse che ho individuato io. O le stesse, che avevano individuato chi? I charlatans. Ovviamente. Guarda come riusciamo a collegarci. Pessima questa. Vabbè, scusa, se abbiamo gli stessi gusti non è colpa nostra. Sì, guarda che i charlatans vengono spesso in piscina il giovedì mattina. E loro guardano i sessantenni e dicono "The only one I know". Cioè, che anche, guarda caso, è il titolo della canzone che hanno portato i ragazzi di BG, di Bandiera Gialla, codesta sera. Le sessantenni di solito rispondono in inglese madrelingua e anche a me. E le ragazze, tra l'altro, hanno fatto fatica nel periodo in cui c'è stata una crisi nei charlatans, sono stati costretti a chiamarsi The Charlatans UK. Eh sì. Perché... Cosa è sto UK? Non è la marca del latte che vuoi prendere tu, il parzialmente scremato, perché quello intero ti dà lo stomaco, ma invece è la denominazione Inghilterra, proprio perché c'era un altro gruppo negli Stati Uniti che si chiamava Charlatans a sua volta. Esatto. Questi ragazzi mi sfornano The Only One I Know, è una traccia che si perde negli anni, ora non mi chiedete quando, però era ormai un decennio fa, sappi che hanno anticipato i Radiohead, al contrario di quanto si pensa, sono stati loro i primi a vendere l'album digitale con un'offerta libera. E con questo tanto io chiudo il cappello che ci dà Jamiroquai, che tanto lui li colleziona. Io con questo ho chiuso le mie informazioni della settimana, che come vedi mi sono anche dato una signora preparazione. Se volevi una sigletta, quindi andiamo a sentire sui 97.8 di Radio Servus e sui 102.2 di Radio San Donà. Questi sono i Charlatans e questa è The Only One I Know. The Only One I Know dei Charlatans, questa è Music for Youth, siamo in chiusura di puntata, ospiti questa sera Bandiera Gialla, è tempo per voi ragazzi di dire qualsiasi contatto, qualsiasi cosa seria che riguardi la vostra associazione e future iniziative a cui darete vita. Ma i contatti in sovraimpressione sono Per quanto riguarda la mail, info@bandieragialla.eu, oppure il nostro gruppo Facebook, facebook.com/bandieragialla. Se avete il piacere di incontrarci fisicamente, via Jesolo a San Donà, la sede di Altro Che, è la sede che condividiamo, quindi se non ci trovate lì potete comunque chiedere di noi e ci possiamo incontrare. Proposte per il futuro, beh, come diceva Lorenzo, la serata del 3 dicembre con Scrivere Male è in buona parte definita ma ancora aperta, quindi ci sono dei contributi per quanto riguarda in video installazioni o anche per quanto riguarda altri gruppi per completare la line up, ben vengano. Anzi, visto che siamo qui, se volete venire a mettere due dischi, cari amici, quella sera noi vi aspettiamo. Non so, perché noi probabilmente quella sera avremo il gas aperto, te lo dico già, guarda. E staremo leggendo poesie di Silvia Plath. Sì, mangiando arance. Per quanto riguarda il futuro, beh, ci sono delle idee, alcune che stanno lì, diciamo, e attendono di essere riprese. C'è il Time Code, il festival di cortometraggi che vorremmo riprendere. Per arrivare una seconda volta, quindi non solo le prime volte di cui si diceva prima. Ovviamente per qualsiasi contributo noi siamo apertissimi, quindi chiunque abbia un'idea, insomma, o volesse trovare delle basi organizzative o insomma del supporto, la può portare lì e vediamo di svilupparla insieme. Nel caso noi proviamo a portare come DJ set per le loro serate i Soulwax. Sì. Ti può sembrare una cosa simpatica? Noi che abbiamo le mani in pasta dappertutto, sì, soprattutto a Ghent. Soprattutto in Belgio. Infatti, vedi perché? Perché ci sono i tuoi parenti. Sì, a Marcinelle. Nelle miniere di carbone. Sì. Però a Ghent stiamo a due passi, cioè una biciclettata, sì, ci arriviamo. E alla fine tutti lo sanno che il Belgio è solo una grande marghera con degli alberi di sottofondo. Non stiamo a raccontarci le storie dell'orso, come si suol dire. Il Belgio, se no sputtaccio. Esatto, sì. Poi, alla fine, comunque... Ah, tra l'altro c'è anche questa grande novità che vogliono dividersi i Belgi. Belgi e Valloni, Fiamminghi, sì, tutti questi bei Fiamminghi ragazzi qui. Belgi e Valloni vogliono dividersi. E Bruxelles sarà dilaniata al pari di Belfast, sì, presumo. Bruxelles, famosa città dove tutti si lanciano cavolini, rimarrà al centro e probabilmente ci costruiranno un muro. Bene. Sul quale i Soulwax andranno a suonare. Esattamente. Usando il tutto come una gran piastra. Esatto. A I questo ragazzi, punto i Soulwax, se posso permettermi, ma anche due volte, ci danno anche una grande opportunità di fare le nostre scuse agli ascoltatori per questa puntata abbastanza indegna, ma non per quanto riguarda l'ospite, ossia l'associazione Bandiera Gialla, che ringraziamo tantissimo. Grazie a voi ragazzi. Ma più che altro per noi medesimi. Noi infatti, i nostri limiti. Hai sentito che nelle ultime due canzoni siamo parecchio riassestati, no? Sì. Cioè, veramente... Enzo Biasi e Indro Montanelli proprio. Infatti io vi voglio solo dire che i Soulwax hanno dato vita a due ottimi album. Uno è Any Minute Now del 2004, al quale abbiamo estratto questa canzone che è A Ballad to Forget, e un altro che è Much Against Everyone's Advice del 1999. Soulwax, che hanno fatto anche nella loro, come dire, carriera alternativa i Too Many DJs, perché uno portavano anche questo nome. Ben poco altro da dire, se non che siamo arrivati in conclusione di puntata. Favotto, è il momento dei saluti. Io ti ringrazio come ogni santa settimana. Io ringrazio Bandiera Gialla e questo Terzariol, che è sempre più poliedrico anche lui e anche polidimensionale. Mica un uomo a una dimensione, come dice il buon Marcuse. E che scenda in silenzio, per cortesia, fai partire la canzone. A Balla to Forget di Soulwax, alla prossima settimana di Music for Youth. Ciao. Didn't. Yeah. just merely got it all wrong. I'm better off blind, 'cause I must remember to forget you, and I must remember you can't seem to. I must remember to forget you.